veramente gravissima. A partire dal giorno in cui c'è stata l'uccisione di Mahsa Amini, le morti sono aumentate, le torture, le condizioni di oppressione sempre più forti. È vero che non sono iniziate solo con questa terribile morte, ma sono iniziate già prima. Le repressioni sono in atto da molto tempo, soprattutto da quando c'è stato il regime di Raisi, e quindi è stata, come dire, una continuità rispetto a questa oppressione e anche alle reazioni. Un regime repressivo che in questo momento deve, comunque, per poter essere fermato, non bastano soltanto queste, che penso sia una vera e propria rivoluzione di giovani donne e giovani uomini. A partire dalle giovani donne sta portando avanti questa richiesta di diritto alla libertà, all'espressione di sé, il diritto alla vita. Credo anche che ci sia veramente la necessità che le istituzioni si uniscano tutte, per tutte le misure diplomatiche messe in atto, per fare cessare questo massacro. Quello che stiamo facendo a Bologna, insieme, come abbiamo visto, all'Università, alla Cineteca, è davvero non soltanto denunciare quello che sta succedendo, ma far vedere anche questa cultura incredibile che ha fatto del cinema uno strumento anche di denuncia e di impegno, e per sensibilizzare ancora di più la cittadinanza, e perché arrivi, speriamo, anche al governo, all'Unione Europea, insomma, che arrivi una voce attraverso il cinema e la cultura che sostenga un cambiamento all'interno dell'Iran. Quali sono le idee che hanno mosso, appunto, l'organizzazione di una rassegna come Bologna per l'Iran, e quali sono gli obiettivi di rassegne come questa? Dunque, innanzitutto è nata da... abbiamo cercato di mettere insieme delle iniziative che erano già in programma, e abbiamo creato, come sempre, una sinergia con l'Università di Bologna, Comune di Bologna e la Cineteca. Una sinergia che abbiamo già visto altre volte, anche per esempio per dare la nostra solidarietà al popolo ucraino, ma anche in precedenza. Abbiamo la finalità esattamente quella di far conoscere attraverso l'arte, la cultura e il cinema, intanto, questo patrimonio incredibile della cultura iraniana, e questo prezioso strumento che il cinema, in cui è sempre stato uno strumento di non solo di denuncia, ma anche di resistenza all'interno del regime stesso. La finalità è quella di arrivare a tutti, speriamo che ci sia molta gente a frequentare, è veramente una rassegna straordinaria, e speriamo che abbia un eco non soltanto locale, ma anche nazionale e anche internazionale, per portare all'attenzione la tragedia, il massacro che sta avvenendo in Iran, ma anche per ricordare la bellissima cultura. C'è una dicotomia molto forte tra l'oppressione del regime e una cultura invece così vitale in Iran, soprattutto dei giovani, e anche soprattutto riguardo, appunto, gli artisti, le artiste. Vedremo Satrapi, che è straordinaria, verranno intervistati registi e registe, documentiamo anche la capacità delle donne di usufruire del cinema per portare avanti le loro istanze, e quindi, insomma, si sente molto fortemente attraverso questa rassegna il cinema come strumento di elaborazione, di resistenza e di storia e memoria che non deve essere dimenticata. Poi sappiamo che le pellicole venivano poi anche censurate, molte non è possibile vedere in Iran. L'altra punto finalità è quello che si faccia sentire, che la comunità faccia pressione, che arrivi in Iran la nostra voce. Credo che sia molto importante che arrivi questa voce. La rassegna vuole essere una voce attraverso il cinema del nostro impegno.